non sono sordo. Ho sentito forte e chiaro anche il dolore più nascosto che mi han fatto. Ed è brutto. Non sono furbo se pretendo ancora adesso di non essere stato mai sconfitto. Quindi sto zitto. Ma quanta solitudine, quanta stupidaggine. Il male non è plausibile, ma non per questo inutile. Però va bene così, anche se un giorno da scordare. Va bene così, anche se un giorno da buttare. Però va bene comunque, che tanto il mondo va in avanti. Va bene pure noi, che di chilometri ne abbiamo ancora tanti. Sì. E sono salvo, ed è impossibile resistere alla vita senza addosso qualche graffio. E non sono perso, perché un'ora di tristezza e una di gioia durano lo stesso tempo. E quindi aspetto. Ma quanta solitudine, per troppo tempo inutile. Fuggivo le tue lacrime, per poi scoprirmi complice. Però va bene così, anche se un giorno da scordare. Va bene così, anche se un giorno da buttare. Però va bene anche tu, che mi hai deluso come tanti. Va bene pure noi, che di comprenderci non siamo ancora stanchi. Gambe forti da campione, ma ho il piglio e l'ambizione. E il male che mi han fatto non potrò mai perdonarlo. Beh, ci devo ancora lavorare, forse. Però va bene così, anche se un giorno da scordare. Va bene così, anche se un giorno da buttare. Se però va bene anche tu, che mi hai deluso come tanti. Va bene pure noi, che di comprenderci non siamo ancora stanchi. Nah. Però va bene così, però va bene così, però va bene così, però va bene così. Però va bene così.